Buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. Si parla di difesa e un po' di picchiare. E allora facciamo gli auguri al giocatore più odiato della storia del basket. Spegne 67 candeline, Bill Laimbeer. Buongiorno a tutti. Che palla 2 azzeccata, sono sempre azzeccate. Buongiorno Paolo e grazie. Però in questo caso sì, sapevo di questo compleanno. Non poteva che nascere sotto il segno del toro, Bill Laimbeer. Buongiorno anche a Pietro, Rookie of the Year. Buongiorno. Buongiorno Willy, buongiorno a tutti e a tutti. Ben ritrovato, finalmente abbiamo completato il nostro roster del Move to Groove, anche perché oggi dobbiamo sopportare, ma nello stesso tempo anche supportare, perché ci sono dei picchiatori che sanno anche giocare a pallacanestro. Certo, non sono due cose che si escludono. Esatto, uno non esclude l'altro, anche perché i protagonisti di cui vi vorrei parlare sono grandi difensori, ma hanno anche una grande capacità tecnica. La difesa, maledetta difesa, è qualcosa che per gli allenatori diventa motivo e valore aggiunto indispensabile, beh, come dare torto, ma insomma la difesa è abnegazione, sacrificio, cattiveria, fatica, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, i nostri protagonisti lo sanno bene, ne daremo breve descrizione, ma faremo degli identikit che vedono anche qualcosa di umano, non solo. E non vorrei parlare di gomitate, come si dice, una difesa dove si sta bassi sulle gambe, si piega le ginocchia e si suda e si fa scivolamento laterale. Esatto. Maledetti scivolamenti. Ruota, oggi scivolamenti. Beh, il bello degli scivolamenti è che puoi barare, ti metti in fondo. Esatto. Ti metti in fondo e non stai poi così piegato, e di solito senti, perché vieni regolarmente beccato dal coach, stai giù col sedere, ecco, che poi non usa, esatto, quella parola, non è sedere. Però ok, non è. Però è molto affascinante il confronto, tra l'altro, dello scivolamento, perché è chiaro che uno che corre va più forte di uno che scivola. Eh beh, certo. Ma la difesa però è in scivolamento su chi porta la palla tendenzialmente. Quindi va più piano anche uno che sta palleggiando, se ci pensi. Quindi è una danza, è un balletto di uno contro uno, dove il difensore ha il limite che segue scivolando e l'attaccante ha questo vantaggio, ma nello stesso tempo un motivo di essere rallentato, perché corre portando palla. Per cui insomma ci sono sia vantaggi che svantaggi, che mettono ad armi pacifiche, si spera, perché in questo caso, in questo momento, vogliamo sempre precisare di uno sport che è motivo e foriero di incontro, certo, scontro agonistico, ma nel mio mondo ideale lo sport è un motivo di incontro, in questo caso per avere una possibilità in più, per crescere, per avere nuove possibilità e soprattutto per divertirsi. Sport e divertirsi di questi tempi è un po' qualcosa che vede una divergenza totale. Al Move to Groove non è esattamente così. Tra l'altro abbiamo parlato di Bill Laimbeer, che esattamente potrebbe completare il nostro starting five. Grazie Paolo per questi auguri, ai quali si aggiungono i nostri, perché Bill Laimbeer, sì, picchiatore, difensore, giocatore sporco, ma guarda che Bill Laimbeer tecnicamente mica male. Come dire, togliergli due titoli da titolare, no? Cioè, esatto. Qualcosa bisognerà saper pur fare. E poi dal punto di vista individuale, un tiratore molto preciso, un giocatore che poteva giocare fronte a canestro allo stesso modo che prendere grandi quantità di rimbalzi, è più ricordato per le porcherie che ha fatto, però... I Pistons di Guglielmi lo ricordano come un grandissimo leader, ne parlano molto molto bene, dicono che proprio a livello di testa fosse un grande elemento nello spogliatoio. Rodman, per quanto Rodman no, sia quel che è, poco affidabile, diciamo, come fonte, ne ha parlato sia bene sia male, ovviamente. Però parlandone bene, appunto, ne sottolineava la leadership e la capacità di, no, trainare. Esatto, bravissimo. Negli Stati Uniti dicono di parlare agli animali, ossia le teste calde, come Rodman, evidentemente. Ma non era esattamente San Francesco. No, certo. filo conduttore del format odierno dell'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko può essere anche la frase di Che Guevara, il grande comandante, che diceva: bisogna essere duri e forti senza dimenticare la tenerezza, e quindi senza dimenticare, come nel caso di Bill Laimbeer, la disponibilità, la capacità di mettersi a disposizione degli altri. Si può difendere, non dico senza picchiare perché è abbastanza un ossimoro, però ci sono stati atleti che facevano della difesa una modalità tecnica molto precisa. Il senso di posizione, la capacità di aiuto e recupero sono gli aspetti molto importanti, cioè la capacità di essere a disposizione degli altri e poi saper recuperare sul proprio uomo, ricordando che non so se sia ancora così, ma nella NBA è vietata la difesa zona. No. Adesso, si può, adesso si può difendere a zona. Che schifo, cioè proprio abbiamo completato il letamaio, cioè proprio vero. Non fate l'onda, diceva quello immerso nel liquame. E lo sai chi è molto alcol. Bravo a far difendere a zona i suoi? Un certo Pat Riley. Pensa che una volta, ma sicuramente te lo ricordi, chi aiutava troppo, certo, si diceva flottare, float on, cioè andare tecnico, fallo. Guarda, tecnico. Quando ho preparato la parte di puntata ieri, io pensavo proprio a questo, a quanto il floating e ora si dice anche roaming, quando c'è tipo il battitore libero, sì, che non ha una marcatura fissa, ma appunto va in aiuto, ruota, eccetera. Ora è un ruolo aggiunto che in NBA, cioè Draymond Green, che è stato un perno difensivo per i Golden State Warriors degli ultimi anni, è un fenomeno a far quello. Lui non ti tiene tanto l'uomo in uno contro uno, ma segue e lo fa bene. Signor giocatore Bill Laimbeer purtroppo faceva tante di quelle tra virgolette porcate sul parquet che viene ricordato più per le sue malefatte che per il suo reale valore. Ma signore, questo è uno dei primi lunghi a mettere i piedi fuori dalla linea dei tre punti, con un'ottima visione di gioco. Naturalmente poi ci metteva anche le sue, solido, grande rimbalzista, difensore anche attento, oltre che a fare delle ingiustizie al centro dell'area, però avercene, classico giocatore da titolo. Allora, pensavo a uno starting five, no? A tale proposito, di atleti ovviamente di epoca molto groove. Sidney Moncrief e Dennis Johnson come difensori di una posizione di guardia, starting five difensivo, quindi le guardie Dennis Johnson e Sidney Moncrief. Avrei portato nella posizione di swingman tale Michael Cooper, che abbiamo conosciuto anche in Italia. L'ala forte è il segretario della difesa, è Bobby Jones. E a questo punto il 5 potrebbe essere Bill Laimbeer. E con questo vinciamo il titolo, secondo me. Anche perché nell'NBA di solito nel quintetto difensivo mettono i grandi stoppatori, anche se il purista non intende la stoppata, ma non è giusto, voglio dire, questo integralismo contro la stoppata, lo dice uno che per anni ha impostato la propria difesa unicamente sulla stoppata. La stoppata era accettata unicamente sull'aiuto, esatto, non sul tuo uomo. No, tu vedi il piccolo che è battuto, vai a aiutare stoppando e inchiodi al tabellone, esattamente, ma non impostare la difesa sulla stoppata. È vero, insomma, è vero, lo dico a denti stretti, sni, dai, anche perché poi si rischia di far fallo nel... Certo. Tim Duncan degli Spurs, lui diceva, quando lo criticarono perché era diminuito il suo numero di stoppate, lui un ottimo lungo, lui disse: no, ma se io non stoppo vuol dire che difendo meglio prima. È un bel furbone. È un bel furbone. Devi sapere, per la storicità del Move to Groove, che è il format più vecchio, intanto di quelli scritti ancora esistenti da me. Nasce come una mezz'oretta, andava il martedì all'ora di pranzo, dove portavo uno starting five di 5 atleti, ovviamente di basket, di vero basket come mi piace chiamarlo, con abbinati musicisti per le colonne sonore in funky, soul and jazz. E lo chiamavo Move to Groove, lo starting five della settimana. Così vi è andato anche il quintetto base per quest'oggi, facendo un ricordo degli albori del Move to Groove. Ma bando a tutto ciò, procediamo, perché ci sono svolte anche nel format. Adesso è diventato più un incontro con quello che è una quotidianità al di fuori del parquet, ricordando che la pallacanestro ha diversi motivi di comparazione. In questo caso, essere decisi, duri. Quello che dici è una persona che è un po' un orso, è una persona che si arrabbia facilmente, è una persona molto arcigna così, ma è poi un buon uomo e se lo fa ha un motivo valido per avere questo atteggiamento. Ecco, queste sono le caratteristiche del buon difensore nella vita, se vogliamo. Poi invece c'è chi per indole è veramente, magari non certamente benevolo, c'è un'altra parola che non è bellissima, che non sto a ripetere, insomma è un po', avete capito, no? Giocatore Billenbier, purtroppo faceva tante di quelle, tra virgolette, porcate sul parquet, che viene ricordato più per le sue malefatte che per il suo reale valore. Gotta rip it out. No, not that one. You're not very smart. Doctor, doctor, will you remove my heart? La categoria tra il buon difensore, che magari è un po' duro ma pulito, onesto, contro invece il giocatore che non sa difendere, l'unico modo, bravo, per fermarti è quello di farti male, quindi di picchiarti. Dividiamo i due giocatori, perché cioè, non confondiamo, diciamo, la cioccolata con qualcos'altro di meno nobile. Un po' come nella vita, nell'esempio che ho portato in precedenza. Esattamente. You gotta take a place. Well, doctor, doctor. Per l'Italia, Daniele Albertazzi. Allora, Daniele Albertazzi, io giocai fuori Bologna lasciando la Fortitudo e poi chiaramente andai a Brindisi in Serie B, tornai a trovare i ragazzi, i miei ex compagni di squadra e insomma in spogliatoio fui un po' esuberante in questo ritorno. Daniele Albertazzi mi apostrofò così: oh, tu per essere tornato fai un po' troppo casino fuori, hai capito? And get a lady doctor. There's something happening here. Pensa che dopo abbiamo terminato, per così dire, io ho smesso presto di giocare, abbiamo terminato la carriera, io giocavo in Serie C a Bologna, lui giocava a Ozzano, mi pare, e facevamo amichevoli. Caspita, l'ho ritrovato diverse volte, ma in quella circostanza me lo ricordo, perché chiaramente siamo lo stesso ruolo, per cui ci siamo marcati. E nonostante tutto, io decisi di impegnarmi, ma con grande sacrificio e grande abnegazione. Ricordo che era un amichevole quando mi chiamarono in panchina, convinto di non aver fatto una gran prestazione. Daniele mi viene incontro, mi abbraccia, mi dà la mano. Grande Willy, grazie per la possibilità di essermi allenato in questo modo. Bello. Questo è un esempio di essere duri senza dimenticare la correttezza, una sorta di tenerezza, ecco. Non inteso come essere molle, ma come essere corretto. Volevi dire su Albertazzi? Volevo farti una, non su Albertazzi, okay. Volevo farti una domanda. So che sei una persona umile, ma sei stato un grande attaccante. Che tipo di difensori soffrivi di più? Io soffrivo moltissimo i difensori più bassi di me, che giocavano sul baricentro, spostandomi dalla posizione, ovviamente con la malizia. Certo. Soffrivo molto la malizia, cioè la botta, il fastidio, il metterti in difficoltà quando l'arbitro non guardava. E passando a questo aspetto, che è più, diciamo, mentale, quello invece tecnico, soffrivo l'avversario con qualche centimetro di meno, ma con una grande capacità di mantenere la posizione e nello stesso tempo un aspetto dinamico. Ecco, questo era l'avversario, e ce n'erano tanti, ti posso assicurare. Beh, che ce n'erano tanti. Cioè, per dirti, un avversario in allenamento per me tremendo era Emiliano Neri, che mi concedeva diversi centimetri, ma non c'era modo di avvicinarsi. Ma non ti concedeva lo spazio. No, non ti concedeva, esatto, lo spazio. Quello. E se ok, allora io mi spostavo e giocavo lontano da canestro. Ma se sei in giornata storta, ed è facile esserlo, perché in quel momento ti sono già arrivate due o tre pacche che ti, esatto, hanno mandato fuori concentrazione, mi mandavano fuori partita, quegli elementi lì. Poi comunque ho giocato in categorie di pallacanestro, insomma, di un basket medio, ecco, se vogliamo. E io, provenendo da altre realtà, io ricordo che sentivo le voci di corridoio: c'è Piana, picchialo. Quello non ti sbagliavi mai, dovevi picchiarmi. C'è Piana, c'è, picchialo, sta anche picchialo. Modalità di difendere diventa: facciamo uscire l'attaccante dalla partita di testa il prima possibile. E quindi veniamo. Noi adesso andiamo in pubblicità, ascoltiamo un po' Hold On, I'm Coming, con questa interpretazione di Ruben Wilson tra funky soul and jazz, la colonna sonora del Mood Groove. E poi, quando rientriamo, parliamo di un aspetto fisico nella massima serie e quindi anche nell'NBA, che è costante. Allora, tu dici: c'è questo, picchialo, c'è quest'altro, gioca in un determinato modo. Sappi che ai tempi, nella massima serie, picchiavano tutti. Ragazzi, se mi permettete, ci sarebbe anche la terza categoria di difensore, cioè quello che non difende ma è talmente buono che non picchia neanche. ma che quando è in difesa, per recuperare l'energia in attacco, si appoggiava al proprio avversario per riposarsi. L'artista di tutto questo era il buon Wayman Tisdale, che ne ha fatta una filosofia nella sua carriera. Poche note di Maze, intanto abbiamo la sicurezza, a meno che non siate autolesionisti, che nessuno possa farvi del male. Il titolo è Mentre sono solo, quindi o non sbatti la testa contro il muro, qua sei forse abbastanza al sicuro. No, beh, allora, ma che puntata inutile, picchiano tutti, è chiaro che, non è così, ci sono diverse sfaccettature di tutto ciò. Certo, picchiano tutti, ma ci sono aspetti importanti. C'è chi intimidisce con la minaccia di farti male, ma del male, e c'è chi ha un gioco molto molto fisico. Sono due aspetti decisamente diversi che possono essere abbinati a quello tra virgolette più positivo e a quello invece legato a una cattiveria fine a se stessa. Alcuni aspetti che vado a descrivere, ma non fatelo, ecco, se qualcuno sta portando a conclusione, si sta avvicinando a canestro e quindi a un'elevazione, tutti chiaramente, come è giusto che sia, vanno a contrastare la conclusione saltando verso l'alto. Voi non abbassatevi e puntate alle gambe. Il movimento scorrettissimo da veri infami ha un nome, si chiama fare il ponte. Esatto. Molte volte fa partire legamenti, molte volte provoca anche importanti danni alla schiena nel ricadere a terra, e chiaramente la conclusione non sarà mai a buon termine perché l'attaccante è molto impaurito di tutto ciò, va verso canestro, salta, non trova di certo il contrasto, ma manca completamente il momento di atterraggio perché viene tolto da sotto. Tale movimento, che è il massimo della scorrettezza, doppiamente infame perché ovviamente l'arbitro ha lo sguardo verso l'alto. Però, insomma, quello che poi ne è una conseguenza tremenda è chiamata fare il ponte. La conseguenza tremenda poi è che se vi prendono il numero di targa perché fate questo, io ho visto dei nasi saltare poi in seguito, quindi chi la fa l'aspetti. Male fatte su un campo è il ponte, e poi mettere il piede sotto al piede dell'avversario in modo da farlo scavigliare, cioè due cose veramente brutte da vedere su un campo da basket. ho visto che hai approvato negativamente un sacco di volte. Io ho giocato meno basket organizzato di William, però avendolo giocato un minimo, soprattutto al campetto, le volte in cui ti mettono il piede non solo sotto la punta del piede, che poi fisicamente è quello che porta alla scavigliata, ma addirittura sotto il tallone, oh, quello peggio che senti ancora, una fitta al tendine che è impressionante, è incredibile. E no, anche lì, ma pensa anche arrivarci a fare da ingenui questo. Si pensa, vabbè, dai, sarà stato un errore. Eppure il simpaticone, no, usiamo questo termine, che ti metteva sempre il piede sotto quando tiravi al campetto, lo trovi sempre. Hai notato che questi, come hai chiamato giustamente, ma direi oltre ironicamente, simpaticoni, facci caso, è difficile che raggiungano i 5 o i 6 falli per uscire, cioè capito? Anche un'altra cosa, che di solito è l'atleta più scoordinato a raggiungere il numero di falli, mentre invece questi, perché lo devi saper fare. Ora non dico un'arte, perché di arte non si parla, però è un mestiere, ecco, mettiamola così. Passiamo al contemporaneo. Comunque hai visto che ho fatto un dispetto a tutti questi tipacci, ho messo musica e canzoni d'amore. Esatto, super tranquillo. Ci ho pensato prima. Dei baci, guarda, veramente. Ma bisogna rispondere con l'amore a questi atteggiamenti. Soffrite e tenetevi la vostra cattiveria dentro, perché noi vediamo nella pallacanestro, appunto, come hai detto, un'arte e un incontro, senza essere decubertiniani all'estremo. No, certo, no. Ci rendiamo conto della competizione, ma correttezza innanzitutto. Ci sono atleti ai giorni nostri, chiudiamo con una scappata ai giorni nostri, ci sono alcuni atleti che possono essere paragonati ai pochi, Allora, secondo me, in base a come si è evoluto il gioco, e quindi no, questa grande spaziatura all'interno del campo, c'è una netta separazione fra difensori in aiuto e difensori sulla palla. E, per esempio, Rudy Gobert, che è un francese lungagnone di 2,20. Ui. Non antipatico, di più. È un enorme corpo da spendere in difesa e in aiuto, e infatti ha vinto tipo 4 volte il premio di difensore dell'anno, perché pattuglia l'area molto bene, ovviamente stoppa, è un grande fattore di intimidazione. A me personalmente non piace, io sono molto più propenso ad apprezzare il difensore in aiuto, quello che ruota molto bene, quello che coordina la difesa e che poi non necessariamente sempre, ma anche saltuariamente si spende bene sulla palla. In questo ti direi Kawhi Leonard, che è un 3 di scuola San Antonio Spurs, non a caso, che è appunto, no, una formazione più europea, se così la possiamo dire. E ora in forza i Clippers, è un grandissimo difensore sulla palla, aiutato anche lui ovviamente da madre natura, perché ha due mani grosse come una paletta. E ti direi lui magari si può riallacciare a a difensori di tanto tempo fa, come a me viene in mente Sidney Moncrief. Non che siano ovviamente la stessa cosa, però questi difensori in aiuto molto eleganti, certo, molto capaci di impegnarti. La difesa ha una tecnica. Esatto, a livello di come ti devi muovere all'interno del campo. Poi storicamente negli anni 2000 abbiamo avuto Tim Duncan, abbiamo avuto Garnett, abbiamo avuto Kobe Bryant, era un grande difensore. E anche Michael Jordan è, esatto, un ottimo difensore. Esatto. Però ecco, non lo so, che ti rubano l'occhio, come appunto ti poteva rubare l'occhio un Olajuwon, come ti poteva rubare l'occhio un Bobby Jones. Ce ne sono sicuramente, Duncan è un esempio, però diverso, è una roba diversa, esatto. La zona in questo secondo me fa tantissimo, perché danno, no? permette difese diverse, banalmente molto più statiche, poi statiche magari non è il termine corretto, però che ti rubano meno l'occhio, ecco. La zona è la difesa che posso poi effettuare io adesso negli amatori, ci mettiamo 2-3, esatto, classico, uno, due. Come diceva Jordan, la zona è la difesa dei pigri, è vero. But most of all, you got to be the leader. You got to hold her, hold her, and warn her. Beh, qui arriverà Paolo, immagino, però la zona è la difesa dei pigri. Allora, la zone press è una roba allucinante. La 1-3-1, la box and one, la match up, la box and one, quando me la... Io ero l'unico uomo lungo al quale facevano la box and one. Assurdo, però. Allora, la box and one, il coach dice: ok, mettiti da parte, non giocare più. Posso dire, però, gran complimento se la difesa dal lungo ti fa la box and one. Cioè, è capitato, ero in promozione, ma è capitato. Una cosina al volo sulla box and one, un po' per fare, come dire, tirare una stilettata agli amici dall'altra parte della pozza, ossia gli americani. Nelle finali del 2019, Steph Curry, presente, il grande tiratore, certo, da tre, grande, eccetera, tiratore. E il grande, grande attaccante della zona, perché è un grande giocatore senza palle, certo. Quindi, no, la zona tilta, si attacca nei buchi. Esatto. Nelle finali del 2019, il coach dei Toronto Raptors, squadra che poi vincerà il titolo contro i Golden State Warriors di Steph Curry, tira fuori questa box and one e gli americani tiltano, cioè stanno lì, cos'è questa roba? Ovviamente sanno cosa sia la box and one, ma non hanno idea di come, cioè Steve Kerr non riesce a trovare, che era il coach, Steve Kerr, storico dei Bulls, dei Cleveland Cavaliers, anche dei Cavs, che è il coach dei Golden State Warriors, rimane senza risposte. E infatti Steph Curry non riesce a nonostante fosse il miglior giocatore della serie, non riesce a far vincere i suoi. Sulla box and one, il coach che ti allena, la prima cosa che ti dice: sono box and one, mettiti in un angolo. Ah, bene, è bello. Avremo modo di parlarne. Va a conclusione questo nostro format tra botte e difesa. Mi raccomando, interpretatele però nella maniera giusta. E appuntamento a domani con il Voltiamo Pagina. Io ringrazio da remoto il contrappunto di Paolo Onofri. Poi abbiamo il ritorno di Pietro Rossi. Mi auguro che tu ci sia anche il prossimo martedì. Ci siamo finalmente liberati. Bene, c'è bisogno del Rookie of the Year per il Mood Groove. Il Voltiamo Pagina è protagonista domani. Io vi ringrazio per l'attenzione, con un caloroso abbraccio, senza stringere troppo, vi saluto, un abbraccio di classe, di classe, esatto. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao, a ciao. Domani.